L'ultimo giorno di consultazioni, via libera di Dio ad un esecutivo con Gianni Letta e Giuliano Amato. Banca Italia, il debito scende a 1.883 miliardi a settembre, fisco più 2,47 le entrate di gennaio-settembre. Viterbo, detenuto, muore dopo aver denunciato maltrattamenti. Buongiorno dalla redazione, da Raffaella Calandra. In primo piano lo spread e i tassi dei BTP decennali che tornano a salire oltre la soglia d'allarme. Per gli ultimi aggiornamenti in diretta Valeria De Rosa. Buongiorno Raffaella, ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori. Allora, grande tensione sul mercato obbligazionario, lo sentivate nei nostri titoli. Il differenziale, lo spread tra BTP e Bund 10 anni a 5,31. Il rendimento è a 7, oltre il 7% in questo momento. Le borse, le piazze del vecchio continente sono tutte in flessione. In questo momento Francoforte c'è del 2,4%, Parigi il 2,10%, si appesantisce anche Londra che c'è dell'1,5%. Male va a Milano, dove il FTSE MIB c'è del 2,57%, il FTSE All Share il 2,39%. Per quel che riguarda il listino principale, il titolo peggiore resta Finmeccanica, che cede il 15,83%. Questa mattina sono stati diffusi i dati che evidentemente non sono piaciuti al mercato. Il gruppo chiude con una perdita, i primi 9 mesi dell'anno, con una perdita di 324 milioni di euro contro un utile di 321 dello stesso periodo di un anno fa. Ci sarà un taglio agli investimenti e dismissioni per 1 miliardo. Male va anche Unicredit, meno 6,07%, Unicredit che, lo ricordiamo, ha diffuso ieri il piano ricapitalizzazione da 7 miliardi e mezzo e dismissioni per svalutazioni per oltre 9 miliardi, ma ovviamente oggi, date le tensioni sul mercato obbligazionario, è in difficoltà tutto il comparto bancario, non solo in Italia ma anche sugli altri listini, perché le tensioni riguardano sì i BTP ma riguardano anche i titoli di Stato francesi e spagnoli. Anche qui c'è stato un allargamento del differenziale, sotto pressione anche il cambio euro su dollaro, 1,35,38 in questo momento, e per i mercati è tutto. Grazie a Valeria De Rosa, e noi apriamo la pagina politica per Mario Monti. È l'ultimo giorno di consultazioni. Oggi il premier incaricato infatti ha incontrato PDL e PD. Ci racconta tutto in diretta da Roma Elisabetta Fiorito. Sì, alla fine l'accordo per formare il nuovo esecutivo sembra essere raggiunto. Appena uscito dall'incontro con il premier incaricato, il segretario PDL Angelino Alfano parla di buon esito. Era l'incontro più difficile, ma sentiamo Alfano. Lo pensiamo alla luce dei fatti, ma anche di questa ultima conversazione, che il tentativo del professor Monti sia destinato al buon esito. È un incontro definito da Alfano abbastanza lungo, perché, ha spiegato, articolato: stiamo lavorando per il bene dell'Italia nell'interesse nazionale, con un impegno che vuole giungere proprio alla formazione del governo. I capisaldi sono gli impegni europei, e si sarebbero sbloccati anche i veti incrociati sull'entrata di politici nel governo. Il PD avrebbe detto sì all'ingresso di Gianni Letta e Giuliano Amato, però poi in questi ultimi momenti sta smentendo. Pieno sostegno comunque sarebbe venuto a Monti questa mattina dal Partito Democratico, dal segretario Pierluigi Bersani. Nessun termine al governo, ha detto Bersani, abbiamo parlato di programma e di riforme, e adesso Bersani è al Quirinale per un colloquio con il capo dello Stato. Per il momento qui da Roma è tutto, poi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito, e tra poco Mario Monti incontrerà anche le parti sociali. Ci racconta tutto da Roma Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Parti sociali dunque attese alle 15 a Palazzo Giustiniani. È una delegazione nutrita quella che sarà a colloquio con il Presidente del Consiglio incaricato. Tra queste Confindustria, Rete Imprese Italia, ABI, cooperative ed ancora mondo dell'agricoltura, sindacati. Un invito, quello di Monti, che è stato molto apprezzato da chi produce e lavora e che rientra nello spirito della coesione invocato sia da Monti che da Napolitano. Ma veniamo alle varie posizioni, dobbiamo essere a supporto anche di misure impopolari, anticipa la Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, perché, aggiunge qui, o ci salviamo tutti, si salva il Paese, o non si salva nessuno. Il leader degli industriali rilancia quindi il manifesto delle imprese, dalle riforme del fisco e delle pensioni a liberalizzazioni, privatizzazioni, investimenti. Bilancio, risanamento e crescita, le priorità per San Galli, Confcommercio, i sindacati, poi il segretario generale della CGIL Camusso chiede un'altra politica economica che si basi sull'equità sociale, bisogna partire dalla redistribuzione fiscale, dice la Camusso, da una patrimoniale sulle grandi ricchezze. Susanna Camusso dice quindi no a toccare le pensioni per fare cassa e il no anche all'ICI, sostegno a piene mani a Monti da Bonanni della CISL. E da Roma è tutto. Grazie anche a Vincenzo Miglietta, emozionati e molto soddisfatti così i rappresentanti del Forum dei Giovani che andranno anch'essi dal professor Monti. Ed è stato il premier incaricato a volerli includere nelle consultazioni. Carmelo Lentino, uno dei portavoce del Forum dei Giovani, fa sapere cosa chiederanno a Monti. In sostanza chiederemo provvedimenti seri da parte del governo in merito alla disoccupazione giovanile, all'accesso al credito, al diritto alla casa, alle politiche favorevoli alle giovani famiglie, fiscalità di vantaggio per le imprese che non assumono con contratti precari, sostegno all'associazionismo e un'agenda di sostenibilità. Secondo lei perché Monti ha sempre espresso questa sensibilità nei confronti dei giovani? Ritengo che il professore abbia lungimiranza politica a differenza di tanti altri. Ovviamente fa piacere, credo, a tutti noi. Politicamente è un gesto molto forte, non è mai stato fatto. Politicamente è sicuramente un gesto fortissimo, è il riconoscimento che tra tutte le parti esiste anche una realtà che è quella che rappresenta il futuro del paese. Le donne stanno pagando il prezzo più pesante di questa crisi, così Alessandra Servidori, consigliere nazionale pari opportunità, l'altra realtà sociale che incontrerà oggi pomeriggio Monti. L'intervista è di Cristina Carpinelli. Evidentemente il presidente incaricato ha ben presente il fenomeno, il problema dell'occupazione femminile e della qualità della vita delle donne nel nostro paese, quindi è chiaro che può essere solo un'opportunità questa per noi. Ti può anticipare cosa dirà Monti? Penso che dovrò prima ascoltare quello che mi dirà lui. Io quindi non ho in mente, come posso dire, delle questioni o dei recinti in cui io mi muovo. Il massimo di disponibilità o del lavoro che abbiamo svolto fino adesso, che è quello di sviluppare politiche attive nel mercato del lavoro da parte delle donne, sviluppare la delega prevista all'articolo 46 collegata al lavoro, questo è l'impegno di sempre per noi, quindi io non ho, come posso dire, da aggiungere altro di quello che naturalmente è sotto gli occhi di tutti e soprattutto i vincoli sono quelli della legge di stabilità. Intanto il dibattito politico si sposta sulla durata del governo. Allora salutiamo Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore. Stefano, allora secondo te qual è l'orientamento che sembra prevalere? Ma che il governo nascerà, stamattina abbiamo capito questo con tranquillità, sia il Partito Democratico che il PDL lo appoggeranno in Parlamento, gli daranno la fiducia e non mettono limiti temporali, quelli saranno determinati poi dalle circostanze, dagli eventi, dai fatti, dalla capacità del governo stesso di riuscire a dare delle risposte, ma non ci sono limiti temporali. Del resto il nodo, che mi pare però che anche quello si stia sciogliendo, se ci sarà o no una presenza politica che affiancherà Monti e che darà il senso di una specie di, come dire, di garanzia politica per i grandi partiti che appoggiano questo governo in Parlamento. Secondo me questo è un elemento importante da capire, da chiarire, perché aiutare a rafforzare il governo e lo metterà più in contatto diretto con le forze parlamentari che dovranno poi sostenerlo. Quindi secondo te, Stefano, il via libera e la caduta dei veti su rappresentanti politici come Gianni Letta e Giuliano Amato può aumentare la possibilità che il governo arrivi fino alla fine della legislatura? Questo non lo so, adesso che possa arrivare al 2013 francamente non lo so in questo momento, però dà al governo un profilo che sicuramente lo rende più autorevole e soprattutto più forte in Parlamento, vuol dire che coinvolge sia il Partito Democratico che il PDL nel sostegno a questo esecutivo, non è soltanto un governo così un po' estraneo alla dinamica parlamentare come sarebbe se fosse di soli tecnici. Se questo sarà l'esito e le ultime notizie vanno in questa direzione, credo che sia un grande punto di vantaggio per Monti, come ho scritto anche stamane sul Sole 24 Ore. Bene, grazie a Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore. Noi ora parliamo degli ultimi dati diffusi da Banca Italia. Il debito scende a 1.883,7 miliardi a settembre, mentre il fisco registra un incremento delle entrate più 2,47. Sentiamo. Dal fisco arriva ossigeno per le casse dello Stato, soprattutto dalle imposte indirette. Nei primi 9 mesi di quest'anno le entrate tributarie erariali hanno raggiunto quota 281,9 miliardi di euro, con un aumento di 4,42 miliardi di euro e una crescita tendenziale dell'1,6%, cioè rispetto allo stesso periodo tra gennaio e settembre del 2010. Il calcolo arriva dal Tesoro, che precisa sempre, rispetto allo stesso periodo dell'anno prima, che le imposte dirette sono calate dello 0,2%, 228 milioni di euro in meno, mentre le imposte indirette hanno pesato di più sull'aumento delle entrate fiscali, salendo del 3,6%, cioè 4 miliardi e 650 milioni in più. In prima linea per gli aumenti il gettito IRE, su dell'1,6%, sostenuto dal buon andamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente pubblico e privato e di quelle sui redditi di lavoro autonomo. Il gettito IRES passa da 20,19 a 19,22 miliardi di euro e tiene, nonostante l'effetto del venir meno delle imposte sostitutive introdotte con la finanziaria del 2008. Su il gettito IVA, su le entrate relative ai giochi, soprattutto i proventi del lotto e degli apparecchi e congegni di gioco, sull'imposta di consumo sul gas metano e quella sugli oli minerali. In tutto questo quadro il fabbisogno dello Stato è rimasto invariato. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E prima di proseguire con le altre notizie del nostro giornale radio, una notizia appena diffusa ed è una smentita del Partito Democratico sull'ipotesi di un appoggio all'ingresso nell'esecutivo di Monti di Gianni Letta e Giuliano Amato, di cui abbiamo parlato poco fa e che era stata una notizia diffusa in mattinata. Il Partito Democratico con una nota conferma l'appoggio al governo Monti ma smentisce questa ipotesi, dunque la situazione è ancora molto confusa, staremo a vedere come evolverà. Adesso siamo alla nostra rubrica quotidiana sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Vi ricordate l'azienda X di cui ci siamo occupati pochi giorni fa? Doveva correre una maratona con i sassi in tasca, avendo come rivale l'azienda Y, che alleggerita di buste paga pagate in nero, arrivava sempre al traguardo per prima. Oltre che non pagare i contributi ai lavoratori e beffare l'erario, l'azienda Y, grazie al lavoro nero, alterava anche la concorrenza. La storia però non finisce qui. L'azienda X, settore grandi lavori, lombarda, 300 dipendenti, oltre 40 milioni di euro di fatturato, ha avuto anche un altro concorrente, l'azienda Z, sede a Gela, 25 milioni di euro di fatturato. L'azienda Z si è scordata per 2 anni, nel 2008 e nel 2009, di versare l'IVA. 3 anni dopo i finanzieri se ne sono accorti e meno di un mese fa hanno eseguito finalmente il sequestro preventivo di beni per 5 milioni di euro. Il mancato pagamento appare nel bilancio dell'azienda Z come debito tributario. Eppure questo non ha impedito all'azienda Z di vincere nel 2011 un appalto. Con chi? Oltre al danno, la beffa. Non è un gruppo privato, ma un grande gruppo che fa capo al Ministero dell'Economia. Bel colpo, ottenuto anche perché, non versando l'IVA, l'azienda Z poteva garantire sconti del 30% sui lavori. Una vera beffa per il fisco e per le aziende concorrenti, che versano l'IVA, rispettano le regole del gioco, ma non sono più competitive. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I titoli, spread oltre quota 530, borsa impicchiata. Monti, ultimo giorno di consultazioni, via libera del PD all'esecutivo con Gianni Letta e Giuliano Amato, ma una nota poi smentisce. Banca Italia, il debito scende a 1.883 miliardi a settembre, il fisco più 2,47 le entrate da gennaio a settembre. Nella prima parte di questo GR abbiamo raccontato l'ultimo giorno di consultazioni di Mario Monti. Poco fa il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy ha detto che per l'Italia questo è il momento della verità. Ricominciamo questa seconda parte del GR con la cronaca, con lo sgombero che c'è stato a New York di Zuccotti Park, il cuore della protesta di Occupy Wall Street. Decine gli arresti. Sgombero è iniziato in piena notte, accompagnato da urla, spintoni e slogan. Centinaia di agenti in tenuta antisommossa hanno costretto con la forza i dimostranti a lasciare Zuccotti Park, la piazza da oltre 2 mesi cuore della protesta di Occupy Wall Street. Ancora incerto il numero delle persone arrestate per aver opposto resistenza. A seconda delle fonti variano da 15 a oltre un centinaio. E i giovani del movimento denunciano violenze. Misura temporanea per ripulire l'area per ragioni igieniche, ha fatto sapere il sindaco Bloomberg. I manifestanti potranno tornare, ma, precisazione non di poco conto, senza tende e sacchi a pelo. Occupato a metà settembre lo spazio a verde pubblico di Liberty Square, di proprietà di una compagnia immobiliare privata, è diventato l'epicentro del movimento e il modello per tutte le altre iniziative nel paese e nel mondo. Nella notte la polizia americana ha sgomberato anche il campo di Occupy Oakland, effettuando 33 arresti. La linea dura era iniziata lo scorso weekend con provvedimenti analoghi in diverse città americane. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla cronaca italiana. Il garante dei detenuti del Lazio avanza l'ipotesi di un nuovo caso Cucchi. Protagonista della vicenda, Christian De Cupis, di 36 anni, fermato alla stazione Termini di Roma dagli agenti della polizia ferroviaria dopo una colluttazione. Portato all'ospedale, avrebbe denunciato il pestaggio da parte della polizia. Dopo 3 giorni è morto. Al microfono di Katia Caramelli, Luigi Manconi, presidente dell'associazione A Buon Diritto. Il caso Cucchi, ai noi, è uno dei 1000 casi. Siamo in presenza, purtroppo, di una certa sequenza che sembra inarrestabile e che porta persone che sono sotto la custodia di apparati e uomini dello Stato a trovare la morte. Nel caso specifico, le mie parole sono ovviamente improntate alla prudenza perché i dati a disposizione sono davvero scarsi, temo che si sia trattato dell'ennesimo caso di fermo effettuato con mezzi sbrigativi, cioè con una scarsa attenzione per i diritti inviolabili della persona. Per l'ennesima volta cosa troviamo? Troviamo che la persona arrestata deve rispondere di resistenza pubblico ufficiale. In tutte le vicende, tutte senza eccezione, che si concludono con la morte dell'arrestato, all'origine sembra esserci una resistenza, ovvero qualcuno che è fermato si trova immediatamente dopo in una situazione, chiamiamola così, confusa, nella quale tuttavia subisce violenze. A quel punto scatta l'imputazione di reato di resistenza per spiegare quello che probabilmente è stato un uso eccessivo della forza. Voti dai clan in cambio di appalti. Siamo in Campania, dove è stato arrestato un consigliere regionale. L'ex sindaco di Villa Literno, comune del Casertano, avrebbe stretto un patto con il clan camorristico dei Casalesi, in particolare con il gruppo capeggiato dal boss Domenico Bidognetti, per procurarsi appoggi elettorali in cambio di appalti. Per questo è stato arrestato il consigliere regionale della Campania Enrico Fabozzi, oggi del gruppo misto ma eletto per il PD, partito dal quale era stato sospeso. In manette è finito anche un altro politico, si tratta di un ex consigliere comunale di Villa Literno. Arrestati per lo stesso reato anche gli imprenditori Pasquale e Giuseppe Mastrominico, già coinvolti nell'inchiesta sul G8 dell'Aquila. Nicola e Vincenzo Caiazzo, Raffaele Garofalo, Raffaele Meccariello, Giovanni e Giuseppe Malinconico e Wanda Caiazzo, ora collaboratrice di giustizia, fidanzata di Massimo Iovine, killer assoldato dalla famiglia Bidognetti. Ritenuti legati tutti al gruppo capeggiato da Antonio Iovine, si sarebbero aggiudicati tra l'altro un appalto illegale a Gragnano, la cittadina in provincia di Napoli, di cui il sindaco Anna Rita Patriarca del PDL, moglie del sindaco di San Cipriano d'Aversa, Enrico Martinelli, pure del PDL, entrambi indagati. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse su richiesta dei PM Antonello Ardituro, Marco Del Gaudio ed Enrica Parascandolo della DDA. La Guardia di Finanza di Aversa ha sequestrato beni, società e conti per circa 10 milioni di euro. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Sono stati i miei eroi, con loro non ho mai avuto paura, grazie a tutti quelli che mi hanno aiutata e salvata. Lo ha detto Anna Bonini, la speleologa bresciana di 36 anni, riportata questa mattina in superficie dalla profonda grotta in cui era rimasta prigioniera domenica pomeriggio. La donna è stata subito fatta salire su un'ambulanza, con lei Mario Milani, il medico che l'ha visitata per primo e che è rimasto con lei oltre 20 ore. È stata una liberazione per tutti. Siamo saltati fuori stamattina alle 6, l'Anna sta bene, sempre stata bella lucida, presente, poi un bel carattere ci ha aiutato anche questo. E adesso la sto accompagnando all'ospedale qui a Trieste. Ma come avete fatto negli ultimi tratti per prenderla, sempre passandovi la barella in 7-8? Sì, anche di più, e poi recuperandola su per i pozzi con manovre di corda abbastanza complicate, però sono quelle che si usano di solito in questi casi. Sono tutti pozzi verticali, per cui si recuperava con manovre di corda in cima al pozzo, si tirava dentro, si strisciava un po' e via così fin quando siamo riusciti a uscire fuori. Debutto fulminante di Fiorello su Rai 1 ieri sera e scommessa vinta dall'azienda di Viale Mazzini. Quasi 10 milioni di spettatori infatti ieri sera hanno assistito al ritorno di Fiorello con il suo show. Tra lo show di 20 anni fa e gli ospiti per gli under 40, tra la presenza in studio degli amici di Twitter e non di Facebook, più avanti ancora, e il vecchio gioco del crooner, ma anche il collante, Fiorello si fa perdonare con battute fulminanti, anche sulla politica. Hanno aspettato proprio noi questo programma, veramente, ad Arcole ci sono le bandane a mezz'asta, ragazzi. Ironia anche sui vertici Rai, fantasmi in prima fila e satira internazionale anche grazie all'aiuto di Michelle Hunziker. Lei, signora Merkel, sì? Signora, ha un culetto piccolo così. No! Tra gli ospiti Negramaro e Giorgia, con la quale Fiorello ha riproposto il monologo già rodato in teatro sul papà alle prese con la figlia adolescente. Loro nel frattempo e noi lì ormai i tranquillanti, che ve lo dico a fare, parlavo prima di Lexotan e noi a casa ci abbiamo il boccione, quello degli uffici col bicchiere. Può mancare la prima polemica? Ovviamente no. Il Codacons ha annunciato il ricorso all'antitrust per la presenza di alcune antiche 500 Fiat, di quelle di un tempo, sì, quelle che non ci sono più. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo allo sport. Questa sera alle 20:45 all'Olimpico l'amichevole tra Italia e Uruguay, ma questa sera si decidono anche le ultime quattro partecipanti alla fase finale di Euro 2012, il prossimo giugno in Polonia e Ucraina. Il servizio. Tre posti sicuri, il Portogallo di Cristiano Ronaldo che invece rischia parecchio. Così la corsa agli ultimi quattro pass per Euro 2012 a 90 minuti, salvo supplementari o rigori, dalla fine dei playoff. Più boschi attraversi, più lupi incontri alla massima del trap per evitare che la sua Irlanda, forte del 4-0 di Tallinn, deragli a Dublino contro l'Estonia. Qualcosa di simile dovrà inventarsi anche il CT croato Bilic, che ospita la Turchia di Hiddink dopo il netto 3-0 con cui ha sbancato Istanbul. E la trasferta in Montenegro contro Jovetic e Vucinic non può far tremare la Repubblica Ceca, vittoriosa a Praga per 2-0. Trema invece il Portogallo di Ronaldo. A Lisbona ospita la Bosnia del bomber del City, Dzeko, e lo 0-0 dell'andata fa venire gli incubi ai lusitani, costretti a vincere per qualificarsi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Alle 13:27 termina questa edizione di GR 24, curata da Daniele Biacchessi. Un saluto a tutti voi da Raffaella Calandra in studio e Fabio Cantadori in regia. Con il GR ci risentiamo alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.